Letture di Radio 24. Mentre i paesi del Nord Europa chiudono le frontiere, Italia e Grecia si lamentano per essere stati lasciati soli nell'accoglienza dei profughi. Ma in realtà sono proprio i paesi del Nord Europa ad aver accolto la maggior parte dei migranti, commenta l'ex ministro di Grazia e Giustizia, Claudio Martelli, in un editoriale pubblicato su Panorama. I paesi del Nord Europa non accettano i migranti che i paesi del Sud Europa non sanno o non vogliono identificare per non doverli sistemare nel proprio territorio in attesa che si decida il loro destino. Dopo le proteste e i richiami della Commissione, Germania, Francia, Austria, Belgio, Danimarca e Svezia hanno reintrodotto i controlli alle frontiere. È una misura temporanea prevista dai trattati in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza interne. Li prolungheranno per almeno altri 6 mesi ed è probabile che chiederanno alla Commissione e al Consiglio di sospendere per 2 anni la libera circolazione per gravi lacune dei controlli esterni dei paesi del Sud. A loro volta, Grecia e Italia lamentano di essere state lasciate sole di fronte alle centinaia di migliaia di profughi e immigrati rovesciati dagli scafisti sulle loro coste e protestano per la quasi totale inadempienza degli accordi sui ricollocamenti che dovevano superare il Trattato di Dublino. Ma sono i paesi del Nord Europa, meta ambita per le opportunità di lavoro e per il generoso sistema sociale, quelli che alla fine hanno accolto il maggior numero di rifugiati sbarcati in Grecia e in Italia. Nel 2005 in Germania ne sono entrati più di 1 milione, altrettanti in proporzione in Svezia e in Danimarca. Sono dati che smentiscono senza possibilità di replica le accuse di egoismo e di chiusura rivolte a quei paesi. Dopo l'umanissimo e incauto annuncio di Angela Merkel, la Germania non porrà limiti all'ingresso dei rifugiati, c'è stata la prima reazione a catena dei paesi del centro Europa che hanno alzato muri e reticolati. Poi i ripensamenti della Merkel e la tregua nell'esodo dalla Siria, pagata alla Turchia con 6 miliardi di euro e il silenzio sulle violazioni dei diritti umani. Chiusa quella strada, ora tutti temono che gli scafisti tornino a puntare sull'Italia. Sarà la NATO a fermarli? Il nuovo governo libico? Sperare non risolve i problemi. Anziché prepararci seriamente ad affrontare con più uomini, più idee e più mezzi le nuove ondate migratorie, che qualunque cosa succeda a Bruxelles impatteranno sul nostro sud, il ministro Angelino Alfano e lo stesso Matteo Renzi hanno continuato a scherzare col fuoco di ritorsioni polemiche e toni baldanzosi. Tipo, non possiamo trasformare l'Italia in un hotspot. L'Italia può fare da sola. È l'Europa che rischia. Non ci faremo intimidire da un gabbiotto al Brennero. Anche lanciare vasti e vaghi programmi di cooperazione con l'Africa non fermerà l'emergenza. Intanto, di decine di migliaia di migranti sbarcati, non solo non si sono prese le impronte, ma si sono persino perse le tracce e non esistono programmi né direttive per avviare al lavoro quelli che ciondolano mantenuti nei nostri centri di accoglienza. In Germania, ma anche in Danimarca e in Svezia, i governi hanno potenziato i loro uffici immigrazione con migliaia di nuovi funzionari e accelerano i programmi di avviamento al lavoro anche dei rifugiati. Ripetere che l'Italia non prende lezioni da nessuno e poi affidarsi al fai da te di comuni e ONG solletica solo la vanità dei vanesi. Invece l'orgoglio di un grande paese consiste nell'imparare da tutti, sempre, e poi agire in modo razionale, costante, efficace. Se governata, l'immigrazione è una risorsa. Diversamente, produce solo costi, caos e conflitti. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Claudio Martelli, Giochi con le frontiere, da Panorama dell'11 maggio. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportaggi, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Letture di Radio 24. Tutti parlano delle atrocità commesse dall'ISIS, ma quelle delle sue succursali non sono da meno e coinvolgono pesantemente bambine e adolescenti, al punto che un allarmato rapporto è stato loro dedicato dall'ONU. Ci riferiamo in particolare a Boko Haram, l'organizzazione jihadista nigeriana, diventata nota nel mondo intero per aver rapito 2 anni fa oltre 200 alunne tra gli 8 e i 14 anni in una scuola di Chibok, nel nord-est del paese. Da allora, pochissime vittime sono state salvate o sono riuscite a fuggire, e altri rapimenti hanno avuto luogo nel frattempo nella stessa zona. Il destino delle bimbe più grandi è stato quello di sposare forzosamente dei guerriglieri, stessa procedura dell'ISIS. Ma negli ultimi tempi, segnala l'ONU, si è sviluppato un nuovo fenomeno. I bambini più piccoli, dagli 8 ai 10 anni, per tre quarti femmine e per un quarto maschi, vengono utilizzati da Boko Haram per compiere attentati suicidi. Terrorizzati, minacciati di torture spaventose se non eseguono gli ordini, bambine e bambini accettano sempre più spesso di farsi saltare in aria per colpire gli infedeli in Nigeria, in Camerun, nel Chad e nel Niger. 1.300.000 sono questi piccoli terroristi e sono già tantissime le loro vittime. In alcuni casi, per dimostrare la loro fedeltà a Boko Haram, i piccoli hanno dovuto farsi saltare in aria nella casa dei loro genitori. Dalla sua roccaforte in Libia, l'ISIS rifornisce e incoraggia questi carnefici. Quella roccaforte va eliminata prima che sia troppo forte per lasciarsi eliminare. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Franco Venturini, Bambini e terroristi, da Io Donna del 7 maggio. Mentre i film italiani prodotti negli ultimi decenni, salvo poche eccezioni, hanno avuto scarsa fortuna fuori dai confini nazionali, il nostro cinema di genere degli anni 70, all'epoca snobbato dalla critica e dagli intellettuali radical chic, continua ad attirare migliaia di appassionati e collezionisti in tutto il mondo. La riscoperta di horror, polizieschi e thriller prodotti in Italia negli anni 70 è iniziata alla fine degli anni 90, grazie alla maggiore disponibilità di titoli, resa possibile prima dalla vendita online di DVD e Blu-ray con tracce audio e sottotitoli in più lingue, e poi dal download. Ad amplificare il mito del nostro cinema di genere hanno contribuito anche gli apprezzamenti di registi come Sam Raimi e Quentin Tarantino, mentre negli ultimi anni sono usciti alcuni film ispirati ai gialli all'italiana degli anni 70, come l'inglese Barbarian Sound Studio, un thriller ambientato proprio in uno studio di produzione italiano che in quel periodo stava realizzando un film giallo. E soprattutto Francesca, secondo film del regista argentino Luciano Onetti. Girato con attori argentini che recitano in italiano, il film ricostruisce in Argentina le tipiche ambientazioni che si vedevano nei gialli italiani dei primi anni 70. Nessuno di questi film è naturalmente mai stato distribuito in Italia, cosa che non deve stupire, se si pensa che la maggior parte del nostro cinema di genere di quegli anni è stato restaurato e rieditato in Blu-ray, soprattutto grazie alla buona volontà di etichette inglesi, tedesche e austriache. Parallelamente alla riscoperta del nostro cinema di genere, all'estero da qualche anno a questa parte spopolano le colonne sonore di quei film, una passione che anche in questo caso ha ispirato tutta una serie di gruppi che si rifanno a quelle sonorità. A questi gruppi è dedicato un lungo articolo pubblicato nella rivista inglese Shindig, che nella prima parte ripercorre invece il momento fortunato della musica italiana degli anni 70. La nascita del giallo coincise per pura casualità con una nuova coraggiosa direzione per la musica italiana. Musicisti come Ennio Morricone stavano iniziando a sperimentare con la forma e con la struttura, creando composizioni più all'avanguardia. Morricone, assieme a Franco Evangelisti e Egisto Macchi, costituiva il nucleo del gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza. Formatosi nel 1964, un anno dopo La ragazza che sapeva troppo di Mario Bava, universalmente riconosciuto come il primo vero film giallo, il gruppo univa free jazz, musica concreta, improvvisazione e influenze classiche per dare vita a brani musicali provocatori e dissonanti che avrebbero in seguito offerto un valido sottofondo alle rappresentazioni cruente di menti deviate e violenza esplicita. Queste dissonanze si fondevano con la musica lounge e con melodie infantili, per dare vita alle tipiche sonorità dei film gialli. Questi elementi si possono individuare facilmente nella colonna sonora composta da Morricone con il primo film di Dario Argento, L'uccello dalle piume di cristallo. dove il free jazz si fonde con elementi neoclassici e vocalità che sembrano una versione distorta e delirante di una ninna nanna. A metà degli anni 70, la nuova musica underground italiana si unisce con le sonorità delle colonne sonore dei Gialli grazie a Goblin, il gruppo progressive scelto da Dario Argento per la colonna sonora di Profondo Rosso. Questa sarebbe stata la prima di molte colonne sonore scritte dai Goblin per Argento, tra cui la meravigliosa Suspiria, ancora oggi tra le più vendute. La scelta dei Goblin è importante anche perché segnò un cambiamento nell'intera scena musicale italiana. La maggior parte della musica popolare negli anni 50 e 60 era rappresentata da quella che in Italia viene chiamata musica leggera, ballate melodiche o sentimentali con poca sostanza. Con le rivolte studentesche del 68, i cantautori intrapresero un percorso di maggior impegno politico e sociale, ma fu solo con l'affermarsi del prog rock che l'Italia conobbe la sua prima sottocultura musicale. La versione italiana del progressive era costituita principalmente da rock sinfonico con influenze folk, e gruppi come il Banco del Mutuo Soccorso, le Orme, la premiata Forneria Marconi e il Balletto di Bronzo conobbero una grande popolarità. Ma intanto il sole tra la nebbia filtra già, il giorno come sempre sarà. Altri gruppi, come gli Area o Picchio dal Pozzo, seguirono un percorso più avant-garde. Una menzione particolare va al gruppo Iacula, la cui musica era impregnata di riferimenti all'occulto e sonorità dark. Il gruppo incise pochi album e poi cambiò il nome in Antonius Rex ed è ancora oggi in attività. Un motivo per cui il prog italiano rimase ai margini rispetto alla scena inglese o tedesca, che erano in grande espansione, è che in alcuni casi era molto politicizzato e i concerti diventavano eventi a sé stanti. Gli Area, per esempio, avevano testi dalla forte connotazione politica di estrema sinistra. Si dice che il progressive italiano ebbe grande successo a causa di alcuni incidenti avvenuti durante i concerti di gruppi inglesi e americani, che richiesero l'uso di gas lacrimogeni da parte della polizia nel tentativo di disperdere i fan più violenti. Led Zeppelin, i famigerati disordini di Milano del 71, i Santana e i Boston, tutti si esibirono in concerti che terminarono in disordini di grandi proporzioni. Nel timore che queste scene si potessero ripetere, l'Italia venne esclusa dai tour dei grandi gruppi rock internazionali. Una delle ripercussioni di questo isolamento fu che aiutò la scena musicale italiana a crearsi una propria identità. Ed è ormai riconosciuto che gli anni tra il 1974 e il 79, anno in cui terminò l'isolamento, furono un periodo estremamente fertile per la musica italiana. Avete ascoltato la lettura di alcuni estratti dell'articolo di Andy Usel, Living la vita scuro, dalla rivista Shindig. Dondola, dondola, il vento la spinge, cattura le stelle per i suoi desideri, un'ombra furtiva si stacca dal muro, nel gioco di bimba si perde una donna. Un grido al mattino in mezzo alla strada, un uomo di pezza invoca il suo sarto, con voce smarrita per sempre ripete: io non volevo svegliarla così, io non volevo svegliarla così.